بسم الله الرحمن الرحيم. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Cos'è l'Islam? La risposta migliore a questa domanda è quella che trova le sue parole nel sublime Corano. Infatti, è nel sublime Corano che sono contenuti gli insegnamenti di Dio. Noi chiameremo d'ora in avanti Iddio con il nome coranico di Allah. Insegna Allah, rifulga lo splendore della sua luce, nel sublime Corano. In verità, la religione presso Allah è l'Islam. In un altro passo del sublime Corano, Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, ammonisce: chi preferisce una religione diversa dall'Islam non se la vedrà accolta e nella vita futura sarà nel novero dei perdenti. Quindi, poiché Allah, potente Egli è ed eccelso, è la verità, Al-Haq, cioè la verità è uno dei 99 bellissimi epiteti di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, l'insegnamento di Allah non può essere altro che verità. Solamente l'Islam, perciò, tra le diverse pratiche religiose degli uomini, è quella valida agli effetti della salvezza dal fuoco. L'Islam è la religione vera, poiché i suoi insegnamenti e i suoi comandamenti sono stati dati a tutti gli uomini dal creatore dell'uomo e di tutto ciò che l'uomo non è, cioè da Allah, il Dio, rifulga lo splendore della sua luce. Gli insegnamenti e i comandamenti di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, che hanno come destinatari tutti gli uomini, si trovano nel libro di Allah, il sublime Corano, che fu rivelato al profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Nel sublime Corano è dato ai credenti l'ordine di benedire e di esaltare il profeta, sicché, in obbedienza all'ordine divino, quando i musulmani menzionano o odono la menzione del nome del profeta Muhammad o le parole profeta, inviato, apostolo a lui riferite, aggiungono l'eulogia tratta dal sublime Corano, sallallahu alaihi wasallam, liberamente tradotta con l'espressione che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. In questo testo, dove è doveroso mettere l'eulogia, viene inserito il suo mini calligramma in arabo. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ordina in un'aia del sublime Corano: obbedite ad Allah, obbedite all'apostolo e a coloro che di voi detengono l'autorità islamica. In un'altra aia, egli, sia gloria a lui l'Altissimo, avverte: chi obbedisce all'apostolo obbedisce ad Allah. E in un'altra ancora insegna: c'è per voi nell'apostolo un modello esemplare di comportamento. Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, con queste sue parole sottolinea una verità importantissima. Gli insegnamenti, i precetti e gli esempi di vita dell'apostolo, il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, hanno valore di regole di condotta. Alla luce dei concetti sopra esposti, possiamo quindi affermare che l'Islam è la pratica del codice di vita che si fonda sul sublime Corano e sulla nobile sunna del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La parola sunna significa pratica di vita, e nella pratica di vita del profeta ci sono gli esempi da imitare e i modelli di comportamento da mettere in atto per chi voglia vivere l'Islam. Nella pratica degli insegnamenti e delle regole di vita del sublime Corano e della nobile sunna del profeta Muhammad si realizza l'identità islamica, e solamente chi possiede l'identità islamica è muslim, musulmano. Musulmano è quindi solo ed esclusivamente colui che ha la certezza della verità degli articoli del credo islamico e pratica il codice di vita dell'Islam, codice che regola tutte le relazioni interpersonali in cui l'uomo è parte e prescrive i comportamenti che l'uomo deve tenere verso il creatore, verso le creature umane, verso le creature viventi non umane e verso l'ambiente. Commettono quindi un gravissimo errore tutti coloro che collegano l'appartenenza all'Islam a un'area geografica, a una nazionalità, a un passaporto, piuttosto che all'obbedienza ad Allah rifulga lo splendore della sua luce, cioè l'obbedienza che ha il suo momento interiore nell'Iman, il credo islamico, e il suo momento comportamentale nell'Islam, la pratica di vita che si fonda sul Corano e sulla Sunna.